Per comprendere chi è figlio di Dio, occorre innanzitutto vedere chi non lo è. Nella Scrittura, e specialmente secondo ciò che è rivelato nel Nuovo Testamento, appare chiaro che l'uomo non sia un figlio di Dio già dalla sua nascita. Questa verità costituirà uno dei temi fondamentali della predicazione apostolica. Paolo scrive agli Efesini: «Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri». Efesini 2, 1 a 3. Ai Romani scrive che non i figli della carne sono figli di Dio. Romani 9, 8. Gesù stesso, parlando con dei giudei, che credevano di essere figli di Dio, affermò che anch'essi, come del resto tutti gli uomini, erano progenie del diavolo. Infatti, facevano le opere di esso, Giovanni 8 e 44. Ecco perché Giovanni, nella sua prima lettera, divide il mondo in due categorie, i figli di Dio e i figli del diavolo, 1 Giovanni 3 e 10. I figli del diavolo non sono necessariamente coloro che vivono una vita depravata, ma sono tutti nati da donna, che non hanno mai sperimentato un incontro personale con Gesù e che quindi non si sono abbandonati all'opera vivificatrice e rinnovatrice dell'intero essere, che il suo spirito opera in ognuno che crede in lui, facendone il proprio personale Signore e Salvatore. Anche se l'uomo per natura non è figlio di Dio, ciò non toglie che sia una sua creatura e, come tale, amata da lui. L'uomo, depravato o no, rimane un essere creato a immagine di Dio. Le parole del Creatore «Facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza» rimangono evidenti in ogni istante dell'esistenza dell'uomo. Possiamo così definire l'uomo naturale un essere creato ad immagine e somiglianza di Dio, sì, ma peccatore per natura, a causa della propria discendenza da Adamo, ed in conseguenza alla quale l'uomo stesso, sia per condotta istintiva, naturale, che per sua personale scelta, merita l'allontanamento eterno da un Dio troppo giusto e santo per poter tollerare la condizione malvagia della propria creatura. La caratteristica di un figlio di Dio. La caratteristica di un figlio di Dio sta nella sua condizione acquisita per fede di rigenerato da Dio, cioè egli è diventato partecipe. Come a mio figlio ho trasmesso la mia natura umana, così Dio trasmette la sua natura a coloro che, scegliendo di abbandonare la propria vita nelle mani di Cristo in risposta all'amore del Creatore offerto nel dono della grazia, acconsentono di essere da Lui rigenerati. Giovanni scrive nel suo Evangelo: Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Giovanni 1, 11-12. La Scrittura chiarisce che figli di Dio non si nasce ma si diventa. Inoltre, mette in evidenza come sia impossibile all'uomo diventare un figlio di Dio tramite la sua volontà, o per volere di un altro essere umano, o per nascita. Per diventare figli di Dio occorre un cambiamento spirituale, una rigenerazione. Per rigenerazione si intende essere generati di nuovo, avere avuto una nuova nascita, una nascita da alto. Giovanni 3:3, fatto che di conseguenza determina nell'individuo un mutamento di atteggiamento nei riguardi di Dio e del peccato. Gesù disse a Nicodemo: quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito, dichiarando in tal modo che l'uomo naturale, l'uomo nato dalla carne, cioè colui che non ha avuto un'esperienza spirituale rigeneratrice, apparterrà sempre al regno naturale finché non subirà una trasformazione operata nell'intero suo essere dallo Spirito Santo. La rigenerazione rimane un intervento esclusivo di Dio. Leggiamo in Giacomo: egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Giacomo 1 e 18. i mezzi che Dio usa per effettuare la rigenerazione. La rigenerazione avviene per opera dello Spirito Santo, che si serve della parola di Dio, cioè della potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, Romani 1:16. Non c'è, è testo, nella Scrittura, che faccia pensare che l'uomo sia rigenerato mediante un altro mezzo. Ecco come si sono espressi gli apostoli al riguardo. Amatevi intensamente a vicenda di vero cuore perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. 1 Pietro 1:23. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri, luminosi presso il quale non c'è né variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Giacomo 1:17-18. Deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Giacomo 1:21. Vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli, poiché, anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. 1 Corinzi 4:14-15. Gesù gli rispose, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3:3-5. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola. Efesini 5:25-26. Secondo la Scrittura lo Spirito Santo insegna, intercede, testimonia, convince e rigenera. Quindi, l'opera di rigenerazione è una delle funzioni dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo nell'Antico Testamento, fin dal secondo versetto della Genesi, notiamo l'opera della persona dello Spirito Santo nella restaurazione della terra. Nell'Antico Testamento non si trova alcuna affermazione attestante che lo Spirito fosse dato a tutti i figli di Israele. Al contrario, l'Antico Testamento annunzia che questa grazia sarà accordata soltanto sotto il nuovo patto. Anche da una lettura superficiale notiamo che lo Spirito Santo era dato solo temporaneamente ai credenti dell'Antico Patto e che poteva essere ritirato. Sansone agì sotto l'azione dello Spirito, ma, in seguito, Dio si ritirò da lui. Giudici 16:20. Saul fu investito dallo Spirito, ma, in seguito, leggiamo, or lo Spirito dell'Eterno si era allontanato da Saul, e un cattivo spirito da parte dell'Eterno lo terrorizzava. 1 Samuele 16:15. Ecco perché Davide, benché investito dallo Spirito dell'Eterno, 1 Samuele 16:14, pregò, o Dio, crea in me un cuore puro, e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza, e non togliermi il tuo santo spirito. Salmo 51:10-11. I santi dell'Antico Testamento erano, quindi, coscienti che lo Spirito Santo ricevuto poteva anche essere tolto. Perciò si comprende che lo scopo dello Spirito di Dio nell'Antico Patto era quello di investire l'uomo per dei compiti particolari, senza però dimorarvi per sempre. Essere investi dalla persona dello Spirito Santo, dunque, per i credenti, prima della venuta di Cristo, rappresentava un privilegio non accordato a tutti. Lo Spirito Santo nel Nuovo Patto. Dal giorno della Pentecoste lo Spirito Santo è promesso a tutti, Atti 2:39, entra nell'individuo per fede, e vi rimane in perpetuo come disse Gesù, se voi mi amate osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della Verità, che il voi lo conoscete, perché dimora con voi, e sarà in voi. Giovanni 14:15-17.

Essi avevano dimenticato che Dio aveva parlato per bocca di Mosè riguardo agli stranieri, essi mi hanno fatto ingelosire con ciò che non è Dio, mi hanno irritato con i loro idoli vani, e io li renderò gelosi con gente che non è un popolo. Li irriterò con una nazione stolta, Deuteronomio 32:21, ed Isaia. Io sono stato ricercato da quelli che prima non chiedevano di me, sono stato trovato da quelli che prima non mi cercavano, ho detto eccomi, eccomi, a una nazione che non portava il mio nome. Isaia 65. Anche Paolo, citando il profeta Osea, scriverà ai Romani che c'è e da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei ma anche fra gli stranieri. Romani 9:24-25. La salvezza dei gentili, dunque, era nei piani di Dio prima della creazione del mondo. Non solo, ma anche la loro ammissione nel corpo di Cristo. Ai Corinzi Paolo spiega, poiché come il corpo è uno, e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. 1 Corinzi 12:12-13. Un solo spirito ha riunito ogni razza per formare un unico corpo. Se noi, che siamo stranieri, consideriamo che eravamo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo, Efesini 2:12, ed ora, invece, siamo una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. 1 Pietro 2:9, dobbiamo onorare Dio per la sua misericordia, Romani 15:9, perché la salvezza è giunta fino a noi, Romani 11:11. Come si diventa figli di Dio? Figli di Dio si diventa mediante la fede in Cristo Gesù. Paolo scrive ai Galati, siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, Galati 3:26, e a Timoteo, fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù, 2 Timoteo 3:15. Anche Giovanni scrive all'inizio del suo Evangelo, Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, Giovanni 1:11-12. Dalla scrittura notiamo che la fede in Gesù Cristo era una fede velata per i santi dell'Antico Testamento, per quanto questa era proprio la fede alla quale erano condotti. Infatti leggiamo, la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, Galati 3:24, e ancora, Cristo è il termine della legge, per la giustificazione di tutti coloro che credono, Romani 10:4. Un brano dell'Apostolo Paolo è molto indicativo. La scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Galati 3:22-26. Paolo fa riferimento ad una fede che doveva essere rivelata. Ora, l'apostolo non intendeva certamente riferirsi alla fede nella sua essenza, perché essa era posseduta anche dai credenti dell'antico patto, ma egli si riferiva alla fede in Gesù, che avrebbero avuto i credenti del nuovo patto. Per cui è evidente che nessun credente dell'Antico Testamento poteva avere tale fede, perché Gesù non era ancora morto e risorto come Salvatore e Signore. Paolo si chiederà, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Romani 10, 13, 14. La fede in Gesù Cristo glorificato quale Signore Salvatore è iniziata dunque dopo la resurrezione di Gesù. In effetti, ecco la conclusione di Pietro nel suo primo sermone cristiano. Sappia dunque, sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto, il Signore è Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Atti 2 e 36. Per questo Paolo affermerà, noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo. Efesini 1 e 12. Anche se in greco abbiamo noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Il testo greco mette in evidenza che gli apostoli non sono stati i primi a porre fede in Cristo, anche se è vero che gli apostoli sono stati i primi ad avere una fede compiuta in Cristo. I santi dell'antico patto hanno avuto una fede simile alla nostra, ma era una fede nascosta, perché la conoscenza di altre verità spirituali era molto limitata. Basti pensare ad Abramo, che nonostante sia il padre della fede, non conobbe l'Eterno con il suo vero nome, ma solo come Dio Onnipotente. Esodo 6, 2 a 3. Il nome dell'Eterno, Yahweh, è stato rivelato per la prima volta a Mosè, Esodo 3 e un quarto. La rivelazione di Dio è, dunque, progressiva. Da questo comprendiamo che l'uomo è giustificato per la fede che pone nella quantità di rivelazione concessagli da Dio. Lo Spirito Santo e la legge. Fino alla glorificazione di Gesù, l'uomo era sotto la maledizione della legge, come leggiamo in Galati. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito. Lo scopo dell'opera di Cristo, dunque, secondo questo passo, è duplice. 1. Permettere che le benedizioni di Abramo fossero ricevute anche dagli stranieri. 2. Che lo Spirito Santo promesso fosse ricevuto da tutti i credenti. Paolo ripeterà questa verità sempre nella stessa lettera. Anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E, perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida, Abba, Padre, così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Galati 4, 3 a 7. Il grande scopo della venuta di Cristo era dunque riscattare gli uomini dalla maledizione della legge, affinché potessero ricevere lo Spirito Santo promesso, spirito di figliolanza, per ricevere, in tal modo, l'adozione di figlioli. L'opera di Cristo era indispensabile perché la legge signoreggia sull'uomo finché vive. Come scriverà l'Apostolo Paolo, traendo l'esempio dal matrimonio, la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera da quella legge, per cui non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Romani 7, 2 a 4. Il discorso di Paolo è chiaro. L'unico modo per essere sciolti dal vincolo della legge è morire. Il cristiano è colui che, creduto in Cristo, si è identificato nella sua morte. Essendo morto, è sciolto di conseguenza dai legami della legge per ottenere il diritto di diventare figlio di Dio. Nella lettera ai Romani, l'Apostolo ribadirà la prospettiva meravigliosa per la quale colui che ha posto fede in Cristo è figlio di Dio. Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Romani 8:15-17. I privilegi di un figlio di Dio. L'Evangelista Luca inizia il libro degli Atti in questo modo. Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, meno, egli disse, meno avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni, Atti 1:1-5. Come abbiamo considerato, il battesimo nello Spirito Santo era un atto profetico che stava per compiersi al tempo degli Apostoli. Luca mette in evidenza che esso era il compimento o il perfezionamento della promessa del Padre. Questo atto conduce il credente ad essere totalmente unito a Cristo, Romani 6:5, e a Dio in quanto Trinità, Giovanni 17:21. Giovanni metterà in risalto questa grazia scrivendo: Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché qual egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. 1 Giovanni 4:16-17. Io credo che questa sia la gloria che Cristo ha donata ai figli di Dio. Giovanni 17:22. Premesso ciò, possiamo comprendere maggiormente quello che Gesù affermò in Matteo. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Matteo 11:11. Com'è possibile che un salvato sia più grande di Giovanni, il battezzatore, che preannunciava il figlio di Dio? Per quanto grande possa essere un uomo nel cospetto di Dio per la sua condotta e chiamata, nessuno arriverà mai ad una gloria come quella che riceve un figlio di Dio. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Romani 11:33. I figli di Dio in relazione alla Chiesa. L'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi per ricordare che sia i giudei che gli stranieri sono battezzati in un solo spirito per formare un unico corpo. Far parte del corpo di Cristo significa far parte della sua Chiesa. Quella Chiesa che, in Ebrei 11:23, è chiamata Assemblea dei Primogeniti. Questo piano di Dio fa parte del mistero di Cristo, che Paolo spiega agli Efesini: nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui, vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù, mediante il Vangelo, Efesini 3:5-6. Questa promessa in Cristo è la vita eterna. 2 Timoteo 1:1. Speranza, la quale Dio, che non può mentire, promise prima di tutti i secoli. Tito 1:2. Così, ricevere lo Spirito Santo per far parte della Chiesa era un preciso piano di Dio, mistero che è stato, fin dalle più remote età, nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, Efesini 3:9, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio a tutte le nazioni, perché obbediscano alla fede, Romani 16:26, per mezzo dello Spirito Santo, Efesini 3:5, perché nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio, 1 Corinzi 2:11. Nell'affermazione dell'Apostolo Paolo, in Efesini 5:25, Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, possiamo comprendere che, nonostante Cristo sia il Salvatore di tutti i credenti, egli morì particolarmente per la Chiesa, altrimenti detta la sua sposa. Questa grande manifestazione d'amore fa pensare alla responsabilità che hanno coloro che sono riscattati con il prezioso sangue di Cristo, 1 Pietro 1,19, perché egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro, 2 Corinzi 5:15. Far parte della Chiesa significa anche essere liberati dal potere delle tenebre ed essere trasportati nel regno del suo amato figlio, Colossesi 1:13. La scrittura ci parla di tre regni, regno dei cieli, regno di Dio e regno di Cristo. Io credo, a rigor di termine, che il regno di Cristo si riferisca alla Chiesa. Gesù disse, in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte, finché non abbiano visto il Figlio nell'uomo venire nel suo regno, Matteo 16:28. Gesù si riferisce ad una sua venuta, prima del rapimento della Chiesa. Anzi, questa venuta sarebbe stata tanto immediata che alcuni ascoltatori presenti l'avrebbero vista. Prova ne è che Gesù disse a Pietro che Giovanni non sarebbe morto prima della sua venuta. Giovanni 21:23. Anche nel Vangelo di Matteo, quando Gesù mandò i dodici a predicare il regno dei cieli, per dimostrare l'imminenza della sua venuta, disse, «In verità, vi dico, che alcuni di coloro che sono qui presenti non morranno prima d'aver visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Matteo 16:28. Cosa voleva asserire Gesù che egli sarebbe venuto nel suo regno? A quale regno si riferiva? È evidente che egli non intendesse solo riferirsi alla sua venuta corporea, ma soprattutto nello spirito. Alla Pentecoste, quando tutti i discepoli furono ripieni di Spirito Santo, vediamo avverarsi questa promessa. Cristo è venuto ad abitare nel cuore dell'uomo, facendo così di questo cuore un piccolo regno. Quando Paolo testimoniò «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me», identificava lo Spirito di Cristo con Cristo stesso. Chi fa parte del regno di Cristo, cioè della sua Chiesa? Paolo risponde «Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui». Romani 8:9. Paolo dichiara che è impossibile far parte della Chiesa considerata come organismo senza avere lo Spirito di Cristo. Lo Spirito di Cristo abita nel cuore di ogni vero credente, il cui corpo diventa il Tempio dello Spirito Santo, 1 Corinzi 6:19, il Tempio del Dio vivente, 2 Corinzi 6:16, perché è la Trinità ad abitare in Lui, Giovanni 14:23. E quando Cristo abita nel cuore del credente, vi abita per sempre, Giovanni 8:35, e nessuno potrà rapirlo dalla sua mano, né soprattutto da quella del Padre, Giovanni 10:28-30. I santi dell'Antico Testamento erano figli di Dio. Dopo queste riflessioni dobbiamo concludere che i santi dell'Antico Testamento non erano figli di Dio, secondo il concetto espresso nel Nuovo Testamento, per i seguenti motivi. 1. Erano sotto la legge, cosa che impediva loro di diventare figli di Dio, Galati 4:5. 2. Non conoscevano il Cristo glorificato e di conseguenza non potevano avere questa fede in Lui. Unica condizione per diventare figli di Dio, Galati 3:23-26. 3. Non potevano ricevere lo spirito di figliolanza, perché esso fu dato solo dopo la glorificazione di Cristo, Giovanni 7:39-16, 7:15. 4. Figli di Dio si diventa mediante la nuova nascita che si ha attraverso il battesimo in Gesù Cristo, Romani 6:3. Questo non poteva avvenire se non dopo la glorificazione di Gesù. Con ciò, non si vuol sostenere che i santi dell'Antico Testamento non siano salvati poiché è un solo Dio il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Romani 3:5. Gesù stesso promise, «E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente». E si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, Matteo 8:11. E, in questo senso che dobbiamo intendere l'affermazione di Paolo, abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. 1 Tito 3 e 10. Una lettura frettolosa porterebbe a concludere che Dio salvi tutti, anche chi non è credente. Ma Paolo intendeva sostenere che, se Dio è il Salvatore di coloro che hanno avuto fede nella sua rivelazione prima della venuta di Cristo, a maggior ragione lo è per chi ha creduto in Gesù Cristo. L'uomo è salvato per grazia mediante la fede che ha posta nella quantità di rivelazione che Dio gli ha assegnata. È evidente che questa rivelazione non è stata uguale per tutti, perché Abele non ebbe certamente la stessa rivelazione degli apostoli, come è scritto nelle altre epoche. Non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui. Efesini 3, 5. Per questo tutti gli uomini, dalla creazione in poi, saranno responsabili secondo la misura della luce che Dio avrà loro accordata. Tale responsabilità vedrà l'umanità divisa in due categorie di persone, secondo questa proposizione di Paolo. Il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. 2 Tessalonicesi 1:8. Coloro che non ubbidiscono al Vangelo rappresentano coloro che, udito il messaggio di Dio, non vi hanno posto fede. Mentre coloro che non conoscono Dio sono tutti gli altri che, non avendo udito il Vangelo, hanno però la possibilità di conoscere il loro Creatore tramite la rivelazione della creazione. Romani 1:18-32. Essere un figlio di Dio è quindi un dono che Gesù concede a tutti coloro che credono in questo periodo di grazia, indipendentemente dalle loro opere. Chi può dire di avere la fede di Abramo? Chi può paragonare la sua fedeltà a quella di Mosè e la propria sincerità a quella di Davide? Ancora una volta, l'elezione di Dio, cioè la scelta per una determinata posizione ora e nell'eternità, non dipende dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Romani 9:12. Non dipende dunque né da chi vuole, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Romani 9:16. Per questo Paolo può esclamare: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. Efesini 1:3-5. Dunque, il piano che Dio aveva prestabilito prima della fondazione del mondo è stato quello di eleggere e di predestinare tutti i credenti del periodo della Chiesa a diventare figli di Dio. Non riguarda la salvezza, come alcuni interpretano, ma la posizione dei salvati. Non vi sono dei predestinati alla perdizione o salvezza, ma dei predestinati ad essere adottati come figli di Dio. Alcuni penseranno che dal momento che a Dio tutto è possibile, alcuni santi dell'Antico Testamento abbiano ricevuto lo Spirito di Cristo facendoli diventare figli di Dio. Ma Dio non è ingerente, non eccepisce alle leggi che Egli stesso decreta. Dio non poteva giustificare, nel senso neotestamentario del termine, nessun credente. Paolo stesso scrive ai Romani che Dio ha usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, Romani 3:25, per poi giustificare il credente dopo avere giudicato il peccato nella carne di suo figlio, Romani 8:3. È vero che leggiamo espressioni nell'Antico Testamento che parlano di figliolanza, quali «ho nutrito dei figli e li ho allevati», ma essi si sono ribellati a me, Isaia 1:2, e ancora «tornate, o figli traviati, dice l'Eterno, perché io ho sovranità su di voi. Vi prenderò uno da una città e due da una famiglia e vi ricondurrò a Sion». Geremia 3:14. Isaia prega: «poiché tu sei nostro padre, anche se Abramo non ci conosceva e Israele ci ignora, tu, o Eterno, sei nostro padre e nostro Redentore, da sempre è il tuo nome». Isaia 63, 16. È vero che l'Eterno, cioè Yahweh, si rapporta con la sua creatura come un padre, ma dobbiamo ricordare che termini che usavano i credenti dell'Antico Testamento non avevano lo stesso significato che avevano al tempo degli Apostoli. Il santo dell'Antico Patto era colui che camminava nelle vie di Dio, mentre gli Apostoli usano questo termine per tutti coloro che sono giustificati davanti a Dio. Così pure l'espressione figli di Dio. Nell'Antico Testamento si trova 7 volte, 2 in Genesi, 3 in Giobbe, 2 nei Salmi, Genesi 6, 2 a 4, Giobbe 1, 6, 2, 1, 38, 7, Salmi 29, 1, 89, 6. Anche da una lettura superficiale si comprende che il senso di tale espressione non è certamente uguale a quello usato dagli Apostoli. In Genesi l'espressione è riferita ai giusti della discendenza di Set che si sposano con donne non credenti. Tale interpretazione è avallata da Giulio Africano, Giovanni Crisostomo, Teodoreto, Cirillo, Agostino, Tommaso d'Aquino, Lutero, Calvino. In Giobbe leggiamo che i figli di Dio si presentano davanti all'Eterno e, quindi, non possono essere certamente dei credenti. Ne consegue che l'espressione è riferita agli angeli, esattamente come nel Salmo 89. Resta l'espressione del Salmo 29, che è evidentemente poetica. Appare evidente che i termini biblici vanno collocati nel loro contesto di rivelazione. L'opera dello Spirito Santo nell'uomo. Lo Spirito compie un'opera di convinzione in ogni uomo, prima che questo arrivi alla fede. Giovanni 16, 8, 11. Questa convinzione si muove su 3 piani: peccato, giustizia e giudizio. Di peccato perché l'uomo prende coscienza d'essere un peccatore, cioè incredulo nei confronti di Cristo. Di giustizia perché si rende conto che il suo peccato sarà giudicato da una giustizia superiore. Di giudizio perché questo giudice, cioè Gesù Cristo, emetterà un giudizio sull'uomo che si tramuterà in condanna eterna se questi non si ravvede dalla sua incredulità. Nell'atto di fede, in Gesù Cristo, quale personale Salvatore, Signore e lo Spirito Santo rigenera l'uomo, Giovanni 3, 5, 9, lo immette nel corpo di Cristo, 1 Corinzi 12, 12, 13, gli comunica i suoi doni, 1 Corinzi mezzogiorno e 11. In seguito, lo istruisce nelle cose di Dio, 1 Corinzi 2, 10, 13, e lo santifica, 2 Tessalonicesi 2, 13. Chi sono dunque i figli di Dio? Sono coloro che hanno udito l'Evangelo della grazia, l'hanno creduto, accettato, l'hanno ricevuto per mezzo della fede mediante lo Spirito Santo. Questo Spirito è lo Spirito che procede dal Padre, promesso prima della fondazione del mondo, per mezzo del quale siamo rigenerati e si diventa figli di Dio. Perché è a questo che i credenti dopo la glorificazione di Cristo erano predestinati. L'Apostolo Giovanni, di fronte a questa verità, non è riuscito a trattenersi e scrive nella sua prima lettera: «Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso, come Egli è puro. 1 Giovanni 3, 1 a 3. Il figlio di Dio è un brutto anatroccolo, in attesa di rivestire la gloria che gli è stata riservata. Per cui egli può iniziare fin d'ora a lodare e adorare Gesù Cristo, il figlio di Dio, che con il suo sacrificio ha reso la creatura in grado di essere partecipe della natura divina, e a ragione di questo l'ha resa degna di essere chiamata figlio di Dio. Maggio 1970. Ellero,